Sapete quanto vale l'evasione fiscale collegata alla criminalità organizzata? Circa 112 miliardi di euro, ossia il 7% del prodotto interno lordo. Il dato è emerso dal rapporto SOS Usura di Confesercenti. Come sia possibile lo ha spiegato il presidente di SOS Usura, Lino Busà, al microfono di Anna Migliorati. In Italia gira il 50% di un banconote da 500 euro rispetto al resto dei paesi della Comunità Europea. Rivela che c'è un livello altissimo di sommerso e di evasione fiscale, di cui gran parte gestito direttamente da imprese camorristiche e da clan che si sono trasformate in imprese tout court. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.